Ambasciatore Spogli, partiamo dai temi di carattere internazionale. Un petrolio a record, un dollaro basso. Si chiede da un lato all'America di ritornare in qualche modo a una politica del dollaro forte che sembra aver abbandonato in questi anni. Invece, secondo lei, l'America resterà ancorata a un dollaro più debole per riuscire a pareggiare meglio la bilancia commerciale? Infatti non abbiamo mai avuto una politica per un dollaro basso e debole. Il fatto che in questi ultimi giorni sia il presidente della nostra Federal Reserve Bernanke e anche il nostro segretario tesoro Paulson hanno ribadito l'importanza di un dollaro forte è un segnale molto forte al mondo che il dollaro forte, un dollaro che veramente regge sui mercati, è proprio la politica giusta per gli Stati Uniti. Questo si lega poi al record del prezzo del petrolio. Storicamente, quando il dollaro si è indebolito, il prezzo del petrolio si è sempre rafforzato. Qui però forse abbiamo superato la misura che ci si poteva attendere. Ecco, secondo lei è pensabile un'iniziativa di carattere internazionale, quindi Europa, Stati Uniti, che in qualche modo faccia della moral suasion sull'OPEC in primo luogo per cercare di riportare il petrolio a livelli più accettabili? È di ieri la notizia che General Motors non produrrà più i SUV perché, o produrrà meno SUV perché il petrolio sta cambiando interi meccanismi di consumo a livello globale. Il dialogo fra l'Europa e gli Stati Uniti per quanto riguarda queste questioni è sempre una cosa molto gradita e se potesse avere un impatto positivo per quanto riguarda l'OPEC in questo caso non ne sono molto certo, ma ovviamente prima o poi il mercato sarà in grado di aggiustarsi per modificare ovviamente i prezzi, soprattutto quando ci sarà più offerta di prodotto e certamente i prezzi a questo livello per un periodo di tempo apporterà alla creazione di nuove fonti di energia e questo certamente nel lungo andare servirà a abbassare i prezzi. Però diciamo oltre una moral suasion, più suasion che moral non si può andare secondo lei? Non credo che necessariamente questa possa avere un effetto molto positivo. Veniamo ai temi di carattere internazionale legati sempre anche all'energia. L'Iran è un fronte molto aperto in questo momento, c'è un'ipotesi di 5 più 1, l'Italia vuole essere della partita. In più in generale, secondo lei quale può essere il ruolo dell'Italia nel dirimere i vostri rapporti con l'Iran? L'Italia ha una forte presenza commerciale in Iran e storicamente è il partner privilegiato dell'Iran assieme alla Francia. Apprezziamo il contributo che l'Italia ha dato e dà tuttora per impedire all'Iran di avere una capacità nucleare offensiva. E quindi questo è sempre una cosa importantissima per i nostri rapporti per il futuro. Una maggiore partecipazione da parte dell'Italia in questo processo. Qualsiasi forma possa prendere sarebbe molto gradita, quindi se formalmente possono entrare nel gruppo P5 più 1 o no, la cosa importante è che l'Italia continua ad avere un ruolo molto importante per aiutare tutto il mondo ad impedire che questo possa avvenire. Restiamo allora sull'Italia. Spesso si critica l'assenza di investimenti stranieri in Italia. Lei ha avuto una lunga esperienza in Italia che era precedente anche al suo incarico di ambasciatore. Le chiedo, secondo lei, perché siamo così poco sexy quando si parla di investimenti? Che cosa preoccupa l'amministrazione americana quando parliamo di Italia, in primo luogo sul fronte dello sviluppo economico? Questo problema è dovuto ad una miriade di ragioni e soprattutto una mancanza di trasparenza del sistema e una mancanza di certezza delle regole. Se fosse possibile cambiare questi due elementi sarebbe ovviamente un passo molto positivo per il Paese. La burocrazia è citata molte volte come un ulteriore impedimento e anche questo pesa molto sulla capacità da parte non soltanto di aziende americane, ma altre aziende europee di investire più in Italia. Quindi qualsiasi cosa che si potesse fare per alleggerire questo impatto sarebbe di nuovo una cosa molto positiva per rafforzare e incrementare gli investimenti esteri in questo paese. Ecco, tra gli investimenti americani in Italia potrebbe rientrare anche l'Alitalia, nel senso che voi in America con le compagnie americane non permettete il controllo di un socio straniero su compagnie aeree americane. Ecco, sareste interessati eventualmente all'ingresso in Alitalia e se sì, diciamo, in che termini? Credo che esistano possibilità per investimenti in molti settori, ovviamente investimenti nel settore dei trasporti è molto, molto interessante. Il fatto che in America si può investire in compagnie aeree fino ad un certo punto è un fatto della nostra normativa. In questo paese chiaramente la possibilità di investire di più in diversi settori sarebbe una cosa molto positiva per i nostri rapporti. Un'ultima domanda e veniamo invece all'aspetto più politico, le elezioni americane sono alle porte, abbiamo avuto proprio in questi giorni la conferma che sarà Barack Obama a correre come candidato democratico. Due domande, in sostanza l'America è pronta complessivamente, quindi è un candidato afroamericano da un lato, dall'altro però sappiamo che storicamente i candidati molto liberal, ossia molto diciamo liberali non nel senso italiano ma più diciamo di sinistra del Partito Democratico non hanno mai avuto una grossa fortuna poi nella gara elettorale. Io credo assolutamente che l'America sia pronta per eleggere una persona di colore, un afroamericano come Barack Obama. Non c'è nessun motivo secondo me per cui questo non possa avvenire. La questione del suo orientamento politico può diventare una questione per questa campagna elettorale. Chiaramente c'è una bella differenza fra la politica di John McCain, repubblicano, moderato, e la posizione espressa molte volte da parte del candidato democratico Obama per quanto riguarda moltissime questioni sia a livello internazionale sia a livello all'interno del paese. Quindi sarà una sfida molto interessante a vedere se lui supererà questo ostacolo e questa immagine di una persona più di sinistra e non una persona più moderata. Ma è troppo vecchio McCain o troppo giovane Obama? Non credo che McCain sia una persona troppo vecchia, ma certamente una questione per Obama sarà la sua relativa inesperienza e sarà interessante vedere come gli americani giudicheranno questi fatti. Grazie, ambasciatore Spogli. Grazie a lei.